e qualità audio un pochino così casereccia, perdonatemi, ma non sono riuscita a fare veramente di meglio. Però la puntata di oggi spero vi piaccia, l'ho preparata con tanto amore perché è una puntata dedicata all'Irlanda. Sapete che Slick Chick parte da uno spunto, che può essere un oggetto, un colore, un numero, una materia, qualsiasi cosa per ascoltare musica, la musica più disparata. Ecco, oggi siamo partiti da un paese, dall'Irlanda, paese che ve lo dico a fare, dilaniato, separato in due, fatto a pezzi, venduto, svenduto, massacrato, svuotato e quant'altro, ma comunque un paese. Volutamente io mi riferisco all'Irlanda come somma di entrambe le parti che, ahimè, da molti decenni ormai boh, soltanto nominalmente separata e soltanto per convenzione è separata, ma in realtà basta andarci per rendersi conto di quanto questa separazione sia veramente assurda, perché passi per andare da Dublino a Belfast, passi in autobus in queste campagne meravigliose che non cambiano di una virgola al confine, perché quello è il paese, quella è l'isola boh, e chissà perché a un certo punto hanno deciso che bisognava separarla, o meglio, chissà perché, lo sappiamo benissimo e in parte ne parleremo durante il corso di questa trasmissione. E allora, siamo partiti dagli Undertones, come avete sentito, probabilmente ve li siete goduti e li avete anche riconosciuti, Teenage Kicks, uno dei brani sicuramente più, forse il più famoso degli Undertones, e anche uno dei brani preferiti in assoluto da John Peel, non degli Undertones, in generale, di tutta la musica. John Peel di musica ne sapeva un bel po', e ne catalogava anche un bel po', ecco, e l'abbiamo già detto in altre puntate, abbiamo già colto questa occasione, e John Peel adorava gli Undertones e in particolare questo brano, tanto da far incidere il verso Our Teenage Dreams So Hard to Beat come epitaffio sulla propria lapide. Brano del 1978, gli Undertones sono nati a Derry, nell'Irlanda del Nord, beh, sapevano un po' di cosa parlavano, soprattutto in quegli anni. Non solo loro, lo vedremo, c'è anche altri gruppi, ci sono anche altri gruppi che hanno parlato abbondantemente dell'Irlanda del Nord o anche della Repubblica d'Irlanda, ma in ogni caso dell'Irlanda e dei Troubles e di quello che succedeva in quegli anni. Allora, questo era il nostro inizio, iniziamo però adesso, al di là dei saltellanti Ardent Undertones, con un'accoppiata, una strana coppia, potremmo dire così, che però in effetti è una coppia meravigliosa, e sono Christy Moore e Shane McGowan. Christy Moore, un cantautore irlandese vecchiotto, attempato ormai, beh, non tantissimo, ma un po' sì, e con una voce secondo me bellissima. E Shane McGowan, il cantante storico dei Pogues, anch'esso con una voce, beh, bellissima in un modo completamente diverso. Insieme in questo brano cantano A Pair of Brown Eyes, una delle canzoni più famose dei Pogues, e tra l'altro non so se ve lo ricordate, il video che accompagnava la versione originale dei Pogues di questo brano è ambientato in una cupa città del 1984, alla 1984, dove al posto del Grande Fratello c'è una Thatcher onnisciente, onnipresente e una miseria dilagante ovunque. Tra l'altro, il produttore del singolo è un passante, Elvis Costello, che poi si è sposato con una componente della band dei Pogues, la bassista, la chitarrista, o un lapsus, forse la bassista se non mi ricordo male, ma vabbè. Invece, Christy Moore era originariamente, ha una storia molto bella secondo me. Christy Moore originariamente era un impiegato di banca con il pallino della musica tradizionale, un pallino che in Irlanda, devo dire, hanno quasi tutti. Negli anni 70, a un certo punto, mentre lui lavorava in banca, appunto, ci fu uno sciopero del settore bancario che durò più di 14 mesi. Al tempo era così, e che paralizzò di fatto il commercio irlandese. E beh, Moore in quel tempo, oltre alla lotta, si trovò un sacco di tempo libero da passare a casa, evidentemente, e ebbe finalmente modo di dare sfogo alla propria passione della musica tradizionale. Quindi si dedicò alla musica, e quando lo sciopero si concluse, Moore disse: "Mamma, che cazzo me lo fa di tornare a lavorare in banca? Chi me lo fa fare?" E quindi abbandonò completamente il proprio lavoro di impiegato bancario per dedicarsi interamente alla musica. Questa cosa, secondo me, è bellissima e mi fa voler ancora più bene a Christy Moore. Di Christy Moore abbiamo già parlato in altre puntate. Abbiamo già sentito diversi suoi brani e raccontato un po' di lui, di chi era, di cosa faceva e come la pensava. Grande supporter della lotta irlandese, ma anche da un certo punto in poi, soprattutto critico nei confronti dell'IRA, insomma, con una sua autonomia di pensiero e lucidità assolutamente non trascurabile. Quindi questo brano che ci stiamo ascoltando è un brano che vede questi due buffi personaggi insieme, Christy Moore e Shane McGowan, in un video barbaramente scaricato da YouTube. Infatti fa parte di un documentario, quindi perdonate se è tagliato malissimo, è tagliato all'inizio ed è tagliato alla fine e si conclude bruscamente. È andata così e non se ne trova una versione migliore. E soprattutto non se ne trova una versione integrale, cosa che io a me dispiace molto. Ma insomma, godetevela perché è molto bello e soprattutto vi consiglio di andare a vedere il video perché il video è bellissimo. C'è un Christy Moore con questa sua voce suadente e molto calda che accompagna in qualche maniera, tiene per mano mentre canta Shane McGowan, che invece è completamente senza denti, devastato dall'alcol e da altri abusi, e c'è una tenerezza infinita in questo cantare insieme di questi due personaggi e probabilmente anche due volti differenti, ma non così tanto dell'Irlanda. Quindi A Pair of Brown Eyes, cantata da questa strana accoppiata, Christy Moore e Shane McGowan. I looked at him, he looked at me, and all I could do was hear him. While Ray and Philomena sang of my elusive dream, I saw the streams and the rolling hills where his brown eyes were waiting. And I thought about a pair of brown eyes that waited once for me. So drunk to hell, I left the place. Sometimes crawling, sometimes walking. And a hungry sound came across the breeze and gave the walls a talking. I heard the sounds of long ago from the old canal, and the birds were whistling in the trees where the wind was gently laughing. And a rovin', a rovin', a rovin' I'll go. A rovin', a rovin', a rovin' I'll go. A rovin', a rovin', a rovin' I'll go. For a pair of brown eyes. For a pair of brown. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da invece questa che abbiamo appena finito di ascoltare era Irlanda, di Didascalici direi, di Irlanda dei Nail of Impression, l'album è L'oceano delle onde che restano onde per sempre, uno dei titoli più lunghi di album che ricordo, album del 2008. I Nail of Impression sono un gruppo di Forlì di qualche anno fa, ahimè penso scioltisi nell'aereo da diverso tempo, non ne ho più sentito dire niente, penso che si siano appunto un po' sciolti, però ci hanno lasciato delle perle secondo me, probabilmente li conosciamo in pochi, ma a me piacciono molto e quindi ce l'ho voluti mettere, questa era la loro Irlanda. Continuando nella nostra scaletta, rapidi perché qua stasera abbiamo un bel po' di brani da ascoltare. Beh, in effetti sull'Irlanda potevo farne almeno 4 di trasmissioni, mi sono già contenuta e quindi insomma almeno concedetemi queste poche canzoni. Allora, andando avanti, e ovviamente non potevo non mettere i Flogging Molly, però ho scelto dei Flogging Molly non una delle più famose, ma Tobacco Island. Beh, perché c'era un po' da fare una parentesi storica. Se si dovesse parlare della conquista dell'Irlanda e delle varie guerre che ha subito questo paese, probabilmente non faremmo ascoltare musica perché dovrei stare a parlare per ore. Ma ci sono vari episodi in tutta la storia irlandese che anche solo presi singolarmente possono servire a dare una idea di quello che è successo in Irlanda e quello che quel popolo ha subito e in parte continua a subire. Per esempio Cromwell, quel simpatico personaggio. Nell'agosto del 1649 Cromwell, lo saprete, si mise a capo di un corpo di spedizione per sedare la rivolta irlandese e scongiurare quella che lui considerava il pericolo di una cospirazione papista. Questo era il pretesto formale. In realtà quella che avvenne fu una vera e propria guerra coloniale della Repubblica Inglese all'interno dell'Irlanda. Sfruttando le discordie nel campo dei ribelli, che anche questa cosa che poi risuccederà in continuazione nella storia, soprattutto tra cattolici e protestanti, e fidando nella superiorità dei mezzi e di coordinamento strategico, perché oggettivamente l'esercito inglese era superiore da tanti punti di vista, Cromwell, alla testa dei suoi soldati, condusse una guerra di sterminio. Non possiamo non chiamarla così, le cose hanno un nome e quella fu proprio una guerra di sterminio. Furono massacrate dal primo all'ultimo uomo tutte le guarnigioni delle fortezze che si arrendevano. Fu una guerra devastante che alla fine della conquista del paese... cioè alla fine della conquista il paese fu completamente appunto raso al suolo, devastato, di una popolazione di 1,5 milioni di irlandesi ne rimane poco più della metà. Tra l'altro è anche il momento in cui vengono date alle fiamme tutte le chiese, se andate in Irlanda e girate, ma basta veramente girare niente, vi renderete conto dell'immensità, dell'enormità di chiese scoperchiate e di cui rimangono pochi 4 muri se va bene, e questa è l'altra eredità di Cromwell. Appunto, popolazione dimezzata e le successive confische in massa delle terre dei rivoltosi assegnarono ai proprietari inglesi i 2/3 della terra irlandese, venendo così a creare una nuova casta di nobili inglesi, quelli che venivano chiamati landlord d'Irlanda, che saranno poi il principale sostegno della reazione inglese e che porteranno una rapidissima restaurazione nell'isola del tradizionale sistema della dominazione nobiliare. Insomma, una guerra anche economica, come tutte le colonie, e condotta con senza alcuna pietà e con precisi fini anche e soprattutto economici. Inoltre, e questo forse è un aspetto un po' meno conosciuto, che i Flogging Molly ci colgono l'occasione per far riportare un po' a galla. Molte migliaia di irlandesi in quelle occasioni furono imbarcati a forza per le colonie americane dell'Inghilterra e qui trasformati in schiavi bianchi nelle piantagioni di zucchero e cotone. L'isola di Tobago, tobacco in inglese, l'isola di Tobago era una di quelle colonie. We must sail for the shore, sweet Barbados, where the sugar cane grows taller than the god we once believed in. The butcher and his crown rape the land we used to sleep in. Now tomorrow chimes of ghostly crimes that haunt the Tobacco Island. Twas 1659, forgotten now for sure. From their home and the musket and their gun, Cromwell and his roundheads battered all we knew. Shackled hopes of freedom were nailed with stolen goods. Darkens the horizon, blackened from the sun. This rotten cage of Bridgetown is where I now belong. Out to hell we must sail for the shore, sweet Barbados, where the sugar cane grows taller than the god we once believed in. The butcher and his crown break the land we used to sleep in. Now tomorrow shines the ghostly crimes that haunt the Tobacco Island. Leg down peg, blister burns the soul. The fog is there a plenty, but reasons there are none. Our facts belong to landlords, but branded is their name. Pay for with 10 shillings, cheap labor never breaks. The silver moon is shining, cools the copper blood. Where the living meet the dead, and together dance as one. Out to hell we must sail for the shore, sweet Barbados, where the sugar cane grows taller than the god we once believed in. The butcher and his crown break the land we used to sleep in. Now tomorrow Sempre di seguito, questi invece erano i Kalashnikov, gruppo milanese che forse avrete sentito un po', hanno suonato spesso anche in quel di Firenze, e l'album era Romantic Songs of Dissidence, e un album secondo me molto bello, molto, a me piace molto, e la canzone era Belfast brucia negli occhi di Sara, anche qui ci voleva. Proseguiamo, e prima di proseguire però nella nostra scaletta vi ricordo i social Wombat, prima di tutto il sito wombat.noblogs.org, dal quale probabilmente ci state già ascoltando e dal quale appunto si possono sia ascoltare i podcast delle varie trasmissioni, sia ascoltarci in diretta, una diretta streaming, e sia tenersi aggiornati sui vari cambiamenti del palinsesto. Ci sono un po' di novità, cambiamenti degli orari, trasmissioni nuove, insomma, è il sito, è il punto giusto dove guardare tutto quello che succede alla nostra radio. E poi oltre al sito vi ricordo ovviamente la nostra casella di posta, postawombat@insiberia.net, che è il modo con cui tenersi in contatto diretto con noi, ci potete dire le cose, ci fa molto piacere se ci raccontate dei vostri ascolti, se vi piacciamo, se non vi piacciamo, se cosa vi piacerebbe che fosse migliorato, consigli su trasmissioni, chissà, mille cose, insomma. Ci fa sempre molto piacere un'interazione con voi. E vi ricordo anche che se siete fortunati o fortunate e siete raggiunti dal nostro Wombat segnale, potete ascoltarci anche sulle onde mediocri alla frequenza 1359 in onde medie AM, appunto. Il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare è di un altro gruppo classico irlandese che non poteva mancare in questa scaletta, ovvero gli Stiff Little Fingers. E questa volta ho preso uno dei brani più emblematici, forse il più famoso, Suspect Device, il primo singolo con cui nel 77, anno cruciale da molti punti di vista, gli Stiff Little Fingers iniziano a raccontare la loro Belfast data alle fiamme. Don't believe them. tornando ai Pogues, perché ci siamo un po', cioè li abbiamo citati, abbiamo parlato del loro meraviglioso cantante di Shane McGowan, però obiettivamente sarebbe un po' impensabile fare una scaletta sull'Irlanda senza ascoltarci un brano come si deve dei Pogues, e quindi doveva succedere, e ho scelto Sally McLellan dall'album Room, Sodomy and the Lash del 1985. Sally McLellan ovviamente è una stout, non pensiate a una donna, non pensate a chissà, magari un personaggio storico importante, no, era una stout e ovviamente non poteva che essere una stout. E Room, Sodomy and the Lash è il secondo album dei Pogues. Room, sodomia e frusta, da un commento attribuito, in realtà forse falsamente, ma vabbè, a noi ci piace pensare che fosse così, a Winston Churchill, commento riguardante le tradizioni più radicate della Marina Reale Britannica. Well, Jimmy White, I'm on again, the pub where I was born. He played it from the night sound to the peaceful early morn. He soothed the souls of psychos and the men who had the horn, and they all looked very happy in the morning. But Jimmy didn't like his place in this world of ours, where the elephant man brought storm in his decks and he had too many pairs. So I sat to see the grieving of the people that I'm leaving, and he took the road for goggles in the morning. We walked into the station in the rain. We kissed him as we put him on the train, and we sang him a song. Our time's long gone, though we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can, to the greatest little boozer and to Sally McLennan. The years went by and twice the change, I grew to be a man. I learned to love the virtues of Sir Sally McLennan. I took the cheers and drank the beers and crawled back home at dawn. I ended up a barman in the morning. I prayed the pump and took the hump and watered whiskey down. I took the booze and horses to the men and drank the brown. I heard the sight of Jimmy is making money far away, and some people left for heaven without warning. We walked into the station in the rain. We kissed him as we put him on the train, and we sang them a song. Our time's long gone, though we knew that we'd be seeing them again. I'm sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can, to the greatest little boozer and to Sally McLennan. When Jimmy came back home, he was surprised that they were gone. He asked me all the details of the train that they went on. Some people may have scared the cop, but Jimmy drank until he choked. Took the road for heaven in the morning. We walked him to the station in the rain, and we kissed him as we put him on the train, and we sang him a song. Our time's long gone, though we knew that we'd be seeing him again. I'm sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey, cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can, to the greatest little boozer and to Sally McLennan. E visto che stiamo iniziando a entrare in quella che è un po' la musica più tradizionale, anche se i Pogues la rivisitano, la tradizione musicale irlandese, e la rendono più punk, più forsennata ancora, più sgangherata, beh, però di tradizione ce n'hanno un bel po', e a me la cosa che mi ha colpito, probabilmente una delle cose che mi ha colpito di più in Irlanda quando ci sono stata, è proprio la diffusione della musica, quanto il fare musica, la cultura musicale sia profondamente radicata in Irlanda. Ovunque puoi ascoltare musica e ovunque trovi persone che sanno, ma chiunque che sa suonare benissimo o cantare meravigliosamente. È come se a un certo punto questa fosse la loro specificità, se avessero deciso che la musica è parte integrante della loro cultura e quindi non potessero fare a meno di suonare e cantare. Beh, i Dubliners dovevamo infilarceli, dovevamo metterceli, e sono ovviamente tra quelli che hanno dato voce a questa tradizione culturale, che è stata molto importante per l'Irlanda, perché è un paese che è stato colonizzato, le cui tradizioni sono state calpestate, la lingua è stata dimenticata, si è cercato in tutti i modi di ripulirla da quello che era il loro carattere, e le loro abitudini, i loro usi, le loro leggende, e in realtà, insomma, ha bisogno di ritrovare quelle che erano le loro antiche abitudini. E quindi i Dubliners, non a caso, decidono di riprendere, così come nella letteratura altri hanno fatto la stessa cosa, riportando le antiche storie, gli antichi personaggi, i folletti, la mitologia irlandese e celtica. Allo stesso modo nella musica i Dubliners, e non solo loro chiaramente, si riappropriano della tradizione musicale, degli strumenti musicali, che poi fra l'altro sono quelli che, siccome gli irlandesi, a volte forzatamente abbiamo visto, a volte no, sono un popolo di migratori, di migranti, si sono portati con sé questi strumenti e hanno contaminato la musica di mezzo mondo. Pensate al banjo, è finito negli Stati Uniti, nelle piantagioni anche là, degli Stati Uniti e dell'America più buia, più nera, o il fiddle, il flauto, tanti altri strumenti, insomma, che poi sono stati portati e hanno contaminato in giro la musica, il blues, il jazz e quant'altro. Il pezzo che ci andiamo a sentire dei Dubliners è Rocky Road to Dublin, un brano del 1964, probabilmente è una delle canzoni più difficili da cantare, almeno della tradizione irlandese. La canzone descrive le avventure, le peripezie del protagonista che gli succedono, per i pezzi che succedono a questo poveraccio nel suo viaggio che intraprende tra Liverpool in Inghilterra, per andare verso Liverpool, partendo dalla sua casa a Tuam in Irlanda. Quindi questo lungo viaggio che viene descritto, nel quale succedono mille cose, incontra mille personaggi, ne succedono di tutte, sventure, peripezie. Il ritmo è quello tipico irlandese, 9 ottavi in modo dorico moderno, ovvero una scala diatonica senza alterazioni che va da re a re. E fra l'altro un'altra curiosità di questa canzone è che la canzone viene in parte recitata più e più volte da Mr. Daisy nell'Ulisse di James Joyce, e quindi insomma ascoltiamocela e stupiamoci insieme della estrema difficoltà con cui viene cantata. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two were nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smothered, enough to reap the corn and leaf where I was born, got a stout macar, the banished ghost and goblets, a brand new pair of brogues to rot the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky roads, a double of 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky roads and all the ways to double and make for all the dogs. In Mullingar the night I rested them so weary, started by daylight next morning late, and there he took a drop of the pure to keep me heart and shrink, and that's the paddy's cure when there is for drinking. They hear the lassie smile, laughing all the while, happy curious style with such a heart above, and they asked me was I hired and wages I required, till I was almost tired of the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn her down the rocky road and all the way to double and make for lullida. In double and next arrive I thought it such a pity to be so still in the private view of Dublin City, then I took a stroll all among the quality bundle, it was stolen in a neat locality, something crossed me mind when I looked behind, no wonder could I find upon me stick a warren inquiring after the rogue, said me cunnus brogue, it wasn't much in vogue on the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5, for five. Punch ahead and turn and jam on the rocky road, and all the ways to double the max for Laldi Da. From there I got away, me spirits never fail, and landed on the quay just as the ship was sailing. Captain at me road said that old room hardy, when I jumped aboard a cab and flew for Paddy. Down among the pigs, did some hearty rigs, I played some hearty jigs, the water ruined me bubbling. When the folly head, I wished myself was dead, or better far instead. On the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5. Up the hair and turn and down the rocky road, and all the ways to double and back for Laldi-Da. The boys of Liverpool, when we safely landed, called myself the fool, I could no longer stand it. Blood began to boil, temper I was new as and poor old Aaron's Isle. They began abusing her army, so well says I, me shillelagh, I let fly. Galway boys were by, and so I was a howling with a low hooray. The giant in the affray quickly cleared the way for the rocky road. It's a double and 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double and back for Laldi-Da. Dicevamo, gli irlandesi, popolo di migranti, e lo sappiamo bene, gli italiani hanno, se li sono ritrovati spesso insieme, spesso hanno fatto combutta anche, in oltretutto, anche soprattutto a inizio Novecento, negli scioperi, nelle miniere, dove si ritrovavano insieme a lavorare. Beh, insomma, gli irlandesi si sono dati da fare, e anche per esportare la lotta e la loro riottosità altrove, dove si trovavano a lavorare in condizioni spesso terribili. E popolo di migranti, e non solo, e un popolo che ha fatto la guerra, e guerre non solo le proprie ma anche quelle degli altri. Ad esempio, Paddy's Lamentation è una tristissima canzone tradizionale irlandese che risale ai tempi della guerra civile negli Stati Uniti, perché molti migranti irlandesi hanno combattuto e sono morti in questa guerra dalla parte della liberazione degli schiavi, e quindi dalla parte degli unionisti negli Stati Uniti, appunto all'interno della guerra civile. E probabilmente questo brano, anche se è anonimo, non sappiamo bene chi fu l'autore, è stato proprio scritto da un soldato irlandese che stava combattendo insieme agli altri suoi connazionali sotto il generale Meagher, che infatti viene anche citato all'interno della canzone, appunto all'interno di questa ennesima guerra. By the hush, me boys, and sure that's to hold your noise, and listen to poor Paddy's sad narration. I was by hunger oppressed, and in poverty distressed, so I took a thought I'd leave the Irish nation. Here's to you, boys, now take my advice. Well, myself and a hundred more, Southern men. And by God, it is the truth to you I mention. Here's to you, boys. Now take my advice. Will go of you not becoming. There is nothing here but war, world law, and cannons roar. And I wish I was at home in little Dublin. Torniamo adesso alle guerre più interne, le guerre in Irlanda e le guerre, la guerra classica che conosciamo tutti e che ha dilaniato l'Irlanda del nord e del sud. Lo spunto ce lo dà Belfast Man, Bobby Sands è tra parentesi, rientra nel titolo ed è ovviamente la persona a cui viene dedicata questa canzone. The Bob Savages, dall'album Celtic Till We Die. The Bob Savages of San Francisco, in realtà l'intero nome è così, sono un gruppo il cui frontman, il cui cantante, è uno degli evasi dalla grande evasione, famosissima evasione, da Long Cash, la prigione di Long Cash, evasione compiuta nel settembre del 1983, soprannominata la Great Escape, la grande fuga, perché in effetti ebbe i toni della leggenda. Evasione supportata dall'IRA, organizzata anche dall'IRA. Long Cash è una località dell'Irlanda del Nord che si trova vicino a Lisburn, nella contea di Antrim. Ed è famosa Long Cash perché era il luogo dove si trovava un vecchio campo di aviazione della RAF che risaliva alla Seconda Guerra Mondiale e che venne usato dal governo britannico dal 1971 in avanti per ospitare i detenuti e gli internati senza processo, cioè detenuti processati e gli internati senza processo durante i tribals in Irlanda del Nord. Sottolineo che c'erano anche moltissimi internati senza processo, e se pensate che questo carcere era un carcere di massima sicurezza, particolarmente efferato, non che invece chi riceve una condanna abbia diritto a questo trattamento, ma insomma fa particolarmente effetto che all'interno di questo carcere ci fossero moltissimi che non avevano avuto neanche il diritto di un processo. Appunto, gran parte erano stati presi durante i Troubles nell'Irlanda del Nord. Nel 1976 viene inaugurata la parte nuova del carcere, ribattezzato Maze, costituita da 8 edifici a un piano di cemento armato a forma di H, che divennero noti come gli H-blocks, i blocchi H, proprio perché avevano questa forma. Nel pomeriggio del 25 settembre del 1983, 38 membri dell'IRA riuscirono ad evadere dal carcere di Mays. Questo carcere era un carcere, come dicevo, di massima sicurezza ed era considerato uno dei più duri carceri a prova di fuga di tutta l'Europa. Il blocco H del carcere era oltretutto diventato tristemente noto nel 1981, quando vi si era svolto uno sciopero della fame dei detenuti repubblicani che portò alla morte di 10 di loro, tra cui Bobby Sands. E fu proprio da quel blocco che i 38 riuscirono ad evadere. Quindi fu un'evasione particolarmente importante e particolarmente sconvolgente anche. Gli uomini armati di coltelli artigianali che si erano ricavati come potevano e di una pistola presero in ostaggio le guardie poco prima dell'ora del cambio e tentarono di forzare la via d'uscita minacciando un autista di camion che era entrato a Mays per delle consegne. Un comando dell'IRA doveva attenderli al di fuori del perimetro del carcere con vari automezzi per portarli via, ma i tempi furono calcolati male. I prigionieri si ritrovarono quindi da soli nel luogo dell'appuntamento e furono costretti a fuggire a piedi. Chiaramente si dispiegò un esercito per cercarli e in meno di 24 ore la polizia e l'esercito catturarono 15 dei 38 evasi, 4 dei quali furono scoperti nascosti in un fiume nei pressi della prigione mentre usavano degli arbusti per respirare. Altri 4 invece vennero catturati nei 2 giorni successivi, e tra cui Hugh Corey e Patrick McKintry. Non so se le si legge così, ho dei dubbi, comunque vabbè, presi dopo un assedio di 2 ore in una fattoria isolata. Dei rimanenti 18 finirono nella roccaforte repubblicana di South Armagh, dove 2 membri dell'IRA erano incaricati del loro trasporto verso vari nascondigli. Allora venne data l'opzione di tornare in servizio attivo nella lotta armata o di scegliere un lavoro e una nuova identità negli Stati Uniti. Alcuni di loro scelsero di andare negli Stati Uniti, tra cui evidentemente, penso, anche se non c'è dato di saperlo con certezza, ma insomma effettivamente penso proprio di sì, il cantante di questo gruppo, dei Bog Savages, che insomma si è avuto in qualche modo anche la fortuna di riuscire a salvarsi. Bog Savages, gruppo di cui io non ho trovato veramente quasi niente. Belfast Man appunto è il brano che ci stiamo per ascoltare e purtroppo ce l'ascoltiamo pure interrotto perché non sono riuscita a trovare la versione integrale. Credo che sia piuttosto difficile trovare l'album che pure hanno registrato i Celtic Till We Die e non sono riuscita a trovarlo. Se qualcuno di voi ce l'ha e lo ritrova, insomma ce lo faccia sapere scrivendoci. Ne saremo contenti. Un gruppo, tra l'altro, al di là dell'interesse storico e politico, è anche un gruppo particolarmente interessante perché alle tradizionali melodie ritmiche irlandesi affianca, lo vedrete, lo sentirete, uno stile reggae e quindi è piuttosto strano. Insomma, ascoltiamocelo. Belfast Man, Bobby Sands, dei Bog Savages. No greater love can a man have than to lay down his life for his friends. This song is dedicated to the 10 men that laid down their lives for their friends. Well, they took Bobby Sands down to Wanderson's town, where the bread choppers buzz overhead. In that field of grey Celtic crosses, there was everything left to be said. And the lone piper stood by his graveside and piped out his sad morning dirge. There on that hill outside Belfast, all the sadness and anger converged. Petrol bomb, don't threat sun till the peelers come. Steady on your aim with the petrol bomb, don't threat sun till the peelers come. I am a Belfast man, yes I am an Irish man. And brave, who was murdered by Britain in a hell called the Maze, the ghettos of Belfast and all across the sea. They shout out his name, Bobby Sands MP. Till the peelers come, steady on your aim with the petrol bomb. Don't threat sun till the peelers come. I am a Belfast man. Yes, I am an Irish man. Ma ora parliamo dell'Irlanda un po' più recente, senza Troubles, o quasi, perché a me i Troubles sì, ci si riferisce a qualcosa di ben preciso, ma non è che adesso proprio in Irlanda del Nord soprattutto si viva benissimo, non so, basta andarci un attimo e proprio non ti sembra un posto ridente, non ti sembra affatto un posto dove i conflitti siano stati risolti, dove si vive bene. D'altronde è ancora un paese diviso in maniera assurda e quindi no, come si potrebbe vivere bene? Sull'altro fronte, il fronte della Repubblica d'Irlanda, nel bel mezzo della Celtic Tiger, ovvero di quella che viene chiamata così proprio perché ha il ruspante e ruggiante mondo della crescita economica, dove grazie alla detassazione, alla defiscalizzazione delle aziende, dei grossi colossi informatici, si andavano a mettere le loro sedi in Irlanda, insomma si è in questa maniera, con questo escamotage, fatto sì che gran parte dei colossi informatici, Google, quant'altro, si trasferissero nella Repubblica d'Irlanda e quindi migliaia di nerd andassero a lavorare lì, provenienti da un po' tutto il mondo, soprattutto Europa e Stati Uniti, ma anche India, Pakistan e quant'altro. Ecco, si è cercato un po' di dare un nuovo volto a una Irlanda che certamente negli anni 80 e 90 era distrutta anche economicamente, e però adesso quello che c'è da chiedersi, e se lo chiedono un po' tutti in Irlanda, ma questo grande boom economico, ma chi ne ha giovato? Sicuramente non gli irlandesi, o perlomeno non la gran parte degli irlandesi, per cui nella Repubblica d'Irlanda, anche nella stessa Dublino, le contraddizioni e il divario tra classi e tra chi sta molto bene, chi viene strapagato perché magari sistemista o programmatore in grandi aziende informatiche e quindi si può permettere una vita più che agiata, e beh, però ci sono loro che frequentano i bar hipster e danno vita poi alla gentrification di tutta la città, e poi però ci sono anche gli irlandesi, quelli che ci sono sempre stati e che non lavorano nell'informatica e quindi sono tutti gli altri e che non se la passano niente affatto bene, c'è una disoccupazione fortissima e anche una crisi economica fortissima per tutti quelli che non beneficiano della Celtic Tiger, e quindi insomma ottimo progresso, direi, tutto cambia perché tutto resti com'è. E all'interno di questo mondo, all'interno di questa situazione, ci sono gli irlandesi che provano a cavarci le gambe, a restare vivi e a dire la loro. Per esempio, tra i tanti ci ascoltiamo Junsu, che già abbiamo ascoltato tra l'altro a Slick Chick in un'altra puntata, dall'album The Troubles, per l'appunto del 2014, ci racconta un po' dell'Irlanda e degli irlandesi con Irish Eyes, che è una canzone che un po' cerca di raccontare il carattere degli irlandesi che lo circondano. Stiamo parlando dell'Irlanda del Nord questa volta, Junsu è di Belfast, originario di Belfast, e quindi però anche lì, al di là dei Troubles, al di là degli inglesi, al di là della colonia, ci sono gli irlandesi e questi sono i loro occhi. Thank you. I've seen a lot of things in my life. I've been to a lot of weird places. Like I've seen the things you dreamed of. I planted the seeds and I climbed a beanstalk. Never pledged my allegiance, no one ever listened to the queen talk. I've always been a wee rebel like an Ewok. Like somehow I was pre-taught. I don't know, am I blessed, am I cursed, am I Jacob or Esau? I don't know, it's a 50-50 like a seesaw. Please Lord, will you take me now before I say something out of regret, please? Sometimes I can't see the forest for the trees. Just make me a big pot of porridge and I leave. Who knows what tomorrow will be, you either follow or lead. And these women wanna swallow my seed instead of nurture it. Cause the only thing that they've ever gave birth to is shit. They give birth to diversity spit. I believe that the verge of the earth is in grip with the words that I've ripped. You see, I'm thirsty for knowledge and my thirst is the worst it can get. Take a piece of my mind, but be careful with your own. It can burst to the bits, like these Irish eyes, oh, they don't smile no more, no. They don't smile. They don't smile no more. It's hard to smile when your life is a shambles. Am I really gonna make it? Is it worth me the gambles? I don't really care how many people wanna curse me like vandals. Cause soon you will burst like a pair of cheap sandals. Though it's cold outside, you can feel the heat from the candles. It's the fact that you fought, who cares that you got beaten battles? There's a glimmer of hope you can win if you just believe that you can break your shackles. Will I escape the fate of being torn apart by these shackles? Or will I die underneath all their hackles and tackles? They crackle my bones. Is a snack for the way back home? Am I ever gonna make dough? Or will it be broke forever like so? I don't know, but still these Irish eyes are like gold of a soul. When I roll with a pen to a scroll, you're a friend or a foe, cause I'm bending my bow. Please tell me now before I let it go. Though I'm on a roll like a rolling stone. I don't mean when you roll on roll with a bow full of blow and a stolen phone. I mean I'm on a roll and I'm rolling home, yo. These Irish eyes, every time I close my eyes, I can open my mind. But these Irish eyes, they were supposed to shine. When I spoke, it was close to divine. I'm a clean spot in an ocean of crime, but overdosed with an ocean of crime. Look, many people wanna be involved with a crook, but their whole life they just stuck to the book. Look, stop and listen before your face gets lifted off like the top of the biscuit tin with a lyrical wordplay that's so fresh like a mouthful of Listerine. I'm not one to boast, but every person that they ever dissed got pissed on. I got the people at this, selling the CD they got dissed on, cause it dissed from. You ever chucked out the disc like a discus? Dropped out of college when I booked out my mistress. Yeah, she gave me a kiss and then I dropped out my kicks and I emptied my sack like it's Christmas. Bad moves cause I never ever saw her again. Still I heard all the whispers. She's not pregnant to a long-term boyfriend she lives with. Or at least I wish she is. In Irlanda hanno un altro problemino importante, come se non bastassero gli inglesi, gli irlandesi ci si mettono pure da soli ad opprimersi nei modi più cruenti ed asfittici possibili, grazie alla Chiesa Cattolica e a tutto il suo enorme e immenso potere che esercita sulla collettività e sugli individui soprattutto, e sulla coscienza e la testa di ogni singolo individuo. In Irlanda è particolarmente pesante, un po' se ne sa in Europa, ma basta parlare con qualcuno che vive là, anche nella ridente Repubblica Irlandese, per rendersi conto di quanto la Chiesa Cattolica veramente opprima quotidianamente le persone. Basti pensare al dominio totale che hanno sulla sanità, non soltanto l'aborto, non mi sto riferendo soltanto all'aborto, che è evidentemente una delle cose che sbalzano agli occhi, insomma, che sono più ovvie, ma in generale la gestione della sanità e quindi del corpo fisico delle persone è totalmente in mano alla Chiesa, ma anche l'educazione, la didattica, le scuole sono quasi tutte cattoliche. E ci sono delle scuole non cattoliche, scuole pubbliche, laiche, ma sono pochissime, e per andarci bisogna iniziare a prendere prenotazioni da quando praticamente tuo figlio nasce, perché insomma altrimenti tendenzialmente tuo figlio finirà, come quasi tutti, in una scuola cattolica con una rigida educazione. Il tuo corpo, dice questo pezzo, il pezzo che ci stiamo per ascoltare, non è tuo. Questo è molto chiaro agli Shrug Life, che sono il gruppo che cantano questo pezzo, Your Body. Il tuo corpo non è tuo, è proprietà della Chiesa e dello Stato. Your body is not your body, it's the property of church and state. It's not your body, it's the property of church and state. In room 5, said goodbye on foreign soil, a final cry before boarding the Ryanair home. So goes the last of the student loan. Sat next to the set from the hen weekend, buying scratch cards from the flight attendant, with excess patience, making small talk, hopping every hurdle, Leinster House is raised in her honor. Yeah, I had a real nice holiday, thanks for asking. Yeah, I had a real nice holiday, ill-equipped with unnamed burden. Options blocked for paths unplanned at age 19, made to understand. Advice goes no further than the law will allow it, and you're on your own if you need a way around it. Yeah, I had a real nice holiday, thanks for asking. And if they stepped inside her skin, forced to forfeit their decisions, would the party line apply? Would they see it as some feminist failure to budge a trek to Liverpool and never talk about it later? Your body is not your property. Ebbene, siamo alla fine di questa puntata di oggi di Slick Chick in registrazione casereccia in Wombat regia itinerante altrove. E beh, alla fine insomma siamo riusciti ad arrivare in fondo a questa scaletta densa di cose che spero abbiate apprezzato. E siccome parlavamo dell'Irlanda di oggi e dei vari problemi che oltre agli inglesi turbano e angosciano gli irlandesi, non potevamo non finire appunto con la lotta per l'aborto libero. E quindi ci ascoltiamo come ultima conclusione di questa scaletta un brano realizzato in supporto ai movimenti per la legalizzazione dell'aborto in Irlanda. Sappiamo bene che nei mesi scorsi c'è stato il referendum andato anche molto bene, ma che non ha risolto del tutto il problema in Irlanda, niente affatto. A tutt'oggi ancora non c'è una legge e ancora le donne irlandesi devono morire di aborto e devono morire di parto, e parti voluti o parti non voluti. E insomma, siamo ancora molto molto molto indietro nella Irlanda del 2018, appunto, in piena Celtic Tiger, in piena rinascita economica, eppure questa è un'Irlanda ancora molto medievale, se ci pensate. Questo brano, appunto, realizzato in supporto ai movimenti per la legalizzazione dell'aborto, è di un gruppo che in realtà credo che si sia formato sostanzialmente per questo, che si chiama Sissi, e il brano si intitola Sail and Rail. Vi saluto con questo, vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre intorno alle 20, oppure in replica durante la settimana. E guardate sul palinsesto tutti gli orari in cui potete ascoltare in replica Slick Chick e le altre trasmissioni di Radio Wombat. Alla prossima, ciao ciao!